tema viva, via lo stress. Via lo stress. Bellissima questa trasmissione. Tutte stressate già adesso ad ottobre per il rientro, è stato stancante, adesso ottobre siamo già tutti stressati, stancati. Soprattutto non c'è più il sole, non fa più caldo, non abbiamo tutte queste potenzialità che ci rilassano, che ci tranquillizzano. Allora, noi due ci abbiamo pensato, questa sera vi facciamo rilassare per benino. E allora, scegliamo prima il colore. Che colore, Barbara? Colore per... io direi bianco. Ah, che bello, anch'io ho pensato bianco. Per il rilassamento, più che lo stress non è bianco per me, ma è più rilassamento. Sì, sì, mettiamo bianco. Il bianco perché il colore è... buono, il bianco, tranquillo, bianco, sì, neutro, ci fa rilassare, riposare. Anche se mi sembra che non sia proprio il colore scelto dagli psicologi per rilassare di più. Forse sarà più il verde o il giallo, no? Il verde di più, il giallo no, il giallo è irritante, dicono. Io pensavo più tipo il colore caldo che ti calma pure, ma ok. Il verde no. Comunque è vero. Gli psicologi sono sempre, non si può capire, loro pensano così, vabbè. Allora, cominciamo con una canzone rilassante? Yes! Questa sera ascoltiamo Pino Daniele, Questo Immenso. Oh, che bello! Buonasera a tutti, rieccoci qui. Con i colori dell'anima siamo Barbara e Cristina. Ciao! Ciao! E, oggi abbiamo pensato di parlare di un tema molto importante, anche interessante, importante sì. Per noi tutti, che siamo tutti sempre stressati oggigiorno. Soprattutto qui in città. È vero. E, abbiamo pensato di parlare dello stress e di tecniche più o meno di rilassamento. Quindi il tema oggi, via lo stress. Via lo stress. Sì, in realtà cerchiamo di parlare di meno possibile dello stress. Ecco. Parliamo solo di quello che ci aiuta a eliminare lo stress. Brava. E quindi anche il colore di oggi è il bianco. Esatto. Che per noi, non so, noi vediamo il bianco col rilassamento. Ci fa rilassare. Però chiediamo a una voce... fuori campo, che è la nostra ospite di questa sera. Ciao Valentina. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Come va? Bene, bene. Sei stressata di fronte al microfono? Certo, un po' di stress ce l'ho, devo sperimentarlo. No, no. Dai, però non lo dimostro. No, no, non più di quello che uno ha in ufficio, ecco, di sicuro. E quindi per te qual è il colore di questo via lo stress? Qual è il colore che daresti a questa puntata? Io sceglierei il verde. Come tu dicevi, sceglierei il verde perché il verde è collegato alla natura. Vero. E la natura è rilassante, no? Mm-hmm. È vero. Tramite la natura siamo più ricollegati a noi stessi, quindi è vero. Io il rosso, arancione e rosso li vedo un po' come fuoco, sì. Movimento, e quindi è l'opposto forse. Lo stress, sì. Il rilassamento. Sì. Io lo stress lo vedo proprio nero. Nero, Nero con grigio, con tipo delle onde di io non lo vedo solo io non vedo solo un colore, ma lo vedo proprio nero, grigio, marrone, colori scuri tutti insieme, una confusione. Ok, ma quindi questa sera per aiutare tutti quelli che ci ascoltano a allontanare lo stress, perché è lunedì sera, la settimana che comincia, le macchine, piove, tutto il traffico, allora abbiamo scelto un cantante, facciamo una serata monotematica, monoautore, cantautore, quindi abbiamo scelto Pino Daniele, che... con la voce molto rilassante. Dolce. Abbiamo scelto lui, che ci accompagnerà in tutta questa puntata per un'ora con voi, dalle 21 alle 22 su radioalma.eu, schiacciate il tasto verde, oppure dalla radio 101.9. Se qualcuno ci vuole chiamare? Ci può chiamare... col numero 02-345-2656. Ok, perfetto. Allora, entriamo un po' nel vivo della trasmissione? Yes. Vado, Barbara? Vai Cristina. Allora, ovviamente ho guardato un po' su internet, come... Ovviamente. come tutti. E ho trovato alcune informazioni sulla... su quali sono le tecniche, quali sono alcuni consigli pratici per rilassarsi. Ho trovato tantissimi blog. Sì. È come se tutti quanti sono esperti in tecniche di rilassamento. Esperti, o almeno che cercano metodi di rilassamento, e poi ne sanno uno e lo scrivono. Ecco, bello. Almeno perché c'è un antico proverbio cinese diceva: quello, vabbè, non lo so. qualcosa, se una cosa non la dici, è come se non la sai. È vero. E, vabbè, questo per fare un po' la saggezza. Allora, sembra che ci sia, ho scoperto, sembra che ci sia una dottoressa, una psicologa dell'Università di Washington, che si chiama Amber Lynn Paukert, non so esattamente come si pronuncia, che ha scritto un libro, La mente pacifica. E questo, su questo sito che ho trovato, il ci sono alcuni, in alcuni punti, insomma, alcuni piccoli punti, questo libro. E sembra che il primo passo, il più importante, sia quale, secondo voi? Quale può essere il primo passo per sconfiggere l'ansia, lo stress? Provo a dirne una. Vai, Valentina, vai. Sparo. Beh, il primo passo è essere nel momento presente, almeno secondo me. Grande pillola. Come l'hai detto bene. Eh sì, bisogna, no, essere qui, altrimenti siamo troppo là nei nostri pensieri. Per anche realizzare dove, sì, dove siamo, cosa ci fa stressare, cosa è il problema. Esattamente. Quindi, essere nel momento. Essere consapevoli. Essere consapevoli è, credo, cruciale. Quindi per questo tu adesso sei così tranquilla, perché sei consapevole. Ho fatto tante ore di meditazione, no, non è vero. Bello. Ok, e quindi l'autore di questo blog che avevo trovato diceva che, per esempio, una cosa interessante è tenere un diario, scrivere. Scrivere su cosa? Tipo... I momenti di stress. O comunque in generale scrivere i propri pensieri, quello che ci passa per la testa, un diario in cui possiamo scrivere tutto quello che ci passa per la testa, e soprattutto per descrivere pure questi momenti di stress. Interessante. Perché sembra che scrivendolo magari ci sono cose che non siamo capaci di dire, invece scrivendo possiamo parlarne, e quindi ci liberiamo di quello che ci dà fastidio, che ci provoca l'ansia. Sì, è vero. Sì, io credo che quando uno scrive è come se facesse fuoriuscire, no, da sé quello che è il pensiero, quindi è un po' un liberarsi, come hai detto. E in più bisogna capire proprio di cosa vuoi scrivere, quindi bisogna metterlo anche in parole, ma prima... Chiarirlo. E chiarirlo, sì. Per se stessi in testa, chiarirlo per poi poterlo scrivere. Sì. Davvero, quello... E quindi guardare in faccia proprio al problema che ci fa stare in una situazione di ansia e di stress. Sì, okay. Perché nel momento in cui si capisce il problema è già più chiaro. È il primo passo per poi migliorare. Sì, è vero. Perfetto. Oh, grazie. Poi il secondo cosa... No, ma li diciamo piano piano. Antistress. Io invece vi volevo fare una domanda un pochino più così pettegola. Qualche momento di stress? Ulla, già, oggi già c'è stato. dici in ufficio. Beh, l'ufficio è forse uno dei luoghi dove lo stress può accadere frequentemente, almeno per quel che mi riguarda. Anche è nella vita. È un ufficio stressato. Un po' stressante in certi momenti. E quindi quando le persone hanno deadline e hanno tante cose da fare, e poi lo percepisci e ti mettono pressione, anche se tu non sei direttamente colpevole o non sei implicato direttamente. Però si percepisce nell'aria. È ben. Quindi lo stress evidente. È come un'onda negativa, credo, si sì, propaga, sì. Sì, probabilmente. Credo proprio. E invece tu, Barbara? Io un po' adesso la mia situazione, no, ma adesso è già molto meglio, ma dico un mese fa ho cambiato lavoro, quindi è stato un po' uno stress conoscere il nuovo, abituarmi al nuovo ambiente, alle nuove cose che devo fare, ai nuovi ritmi, ai colleghi. Quindi è stato un po' stressante, però adesso è già molto meglio. Che bello, quindi stasera siamo tutte... E tu, Cristina? Ma io ci stavo pensando, però a me la gente in generale dice che io sono una persona molto tranquilla, ma io sono convinta del contrario. Sono una situazione di stress per me può essere... In questo momento al lavoro non sono molto stressata, perché mi trovo in un ambiente piacevole, quindi lavoro bene, senza stress. Quando sono davanti a qualcosa che non posso gestire, o con qualcuno che non mi capisce, che non... Oppure quando ci... per me è anche così spesso quando ci sono tante cose che devo fare, che so entro le prossime due settimane ho questi appuntamenti o devo organizzare varie cose, devo prepararmi per il mio lavoro, e poi ci sono e poi vengono le email, c'è tanto che non sai, non so dove cominciare, e questa situazione mi stressa all'inizio, perché non so dove cominciare a fare, a lavorare. Questa cosa è brutta. Io cerco sempre di trovare un modo di, ok, adesso respiro, poi devo vedere dove comincio. Una cosa alla volta. Posso fare solo una cosa alla volta, però c'è sempre quel giorno all'inizio, quando quando sono stressata e non so dove cominciare, e arrivo la sera stanchissima. Anch'io ho delle liste, e più vedo la lista e più la lista sembra grande. Poi se uno inizia a fare le cose una alla volta, magari si fanno, ma è la lista, è la lunghezza, è l'insieme di tutto che sembra una montagna. Va bene, quindi continuiamo con una lista? No, secondo me potremmo ascoltare Pino Daniele adesso. Va bene, ascoltiamo una canzone che ha una voce un po' più... lui c'ha una voce un po' più bella. E questa canzone è proprio a tema di stasera, Quando Chiove. Rieccoci in linea con I Colori dell'Anima, Cristina e Barbara con voi questa sera su Radio Alma 101.9. Per chi ci volesse ascoltare via internet, che ovviamente ci sta già ascoltando via internet, radioalma.eu. E siamo questa sera in una... abbiamo una puntata molto rilassante, via lo stress. E la nostra ospite Valentina, che abbiamo invitato appunto perché ha cognizione di causa su questo argomento, è una ragazza che sta trasmettendo proprio nell'aria delle onde di tranquillità. E niente, va bene, quindi abbiamo Valentina con noi che ci racconta un po', ci dà qualche informazione in più, e invece io vi dico quello che ho trovato su internet. Allora, il secondo passo, il secondo punto tra i punti più importanti per rilassarsi o per affrontare le situazioni di stress si chiama respira. Facciamo tutti un bel respiro. Tutti quanti un bel respiro profondo. E in effetti non è una cosa talmente scontata. Noi non ci rendiamo conto, non pensiamo, perché respiriamo naturalmente. Sì, però respiriamo, non lo facciamo in aspetta, modo aspetta giusto. Che non ti sentono, ora ti sento. Noi non respiriamo in modo giusto, perché non facciamo quei respiri grandi, proprio profondi, con tutti i polmoni, ma facciamo quei respiri piccoli, stressati. È vero, infatti quando se un corpo è rilassato, diciamo dopo vari minuti di rilassamento, il respiro diventa molto più profondo, è più lento. Quando dormiamo, certo. Infatti quando noi respiriamo siamo un po' più tesi, respiriamo in modo superficiale, cioè con la parte alta dei nostri polmoni, che si riempie più rapidamente, e quindi la nostra respirazione è più frequente, mentre quando la respirazione rallenta e diventa più profonda, respiriamo con la parte bassa dei nostri polmoni e facciamo funzionare bene anche il diaframma, che è questo muscolo che si trova a metà e che però è molto difficile da controllare. E invece i momenti in cui respiriamo bene naturalmente sono quando dormiamo. Quando dormiamo, paradossalmente, già. No, è quando ci rilassiamo di più. Quando ci rilassiamo e anche quando facciamo sport, perché lì siamo obbligati a prendere molta aria e il nostro corpo va in automatico. E va bene, ma voi prendete il tempo per respirare? Adesso me lo sto dicendo più e più, adesso devo respirare. Quando sono tipo una situazione non so come fare, no? No, adesso respiro e poi vediamo un po'. È vero, ma se ci pensate anche il modo di dire, non ho neanche tempo di respirare, si dice, no? Come modo di dire, ma è veramente simbolico del fatto che in realtà se noi ci fermiamo ora e diciamo ok, almeno mi concentro, respiro e mi concentro sul respiro, perché il segreto è concentrarsi sul respiro, e almeno in quei momenti in cui ti concentri sul respiro puoi abbandonare un po' il mentale e tutte le varie elucubrazioni del mentale, perché poi lo stress deriva dal mentale, siamo noi che ci creiamo lo stress, ovviamente sono le condizioni esterne, ma siamo noi che le percepiamo in un certo modo. Però quando ci mettiamo a respirare e a seguire poi i nostri pensieri, a volte ci perdiamo, non riusciamo... A me capita di non riuscire a controllare i miei pensieri. È vero, giusto, è vero. Troppe cose che si accavallano. Questa è una buona osservazione, ma Una volta ho letto un libro di John Kabat-Zinn, mm-hmm, se volete prendere nota, e il titolo è Dovunque vada ci sei già. Già il titolo dice molto. E, c'è una bella metafora in questo libro, perché lui dice, vabbè, dà molti consigli, è abbastanza approfondito, ma una metafora interessante, praticamente lui consiglia di sedersi e pensare al proprio respiro, cioè concentrarsi, scusate, non pensare, ma concentrarsi al proprio respiro, e pensarsi come un uomo su una, sul ciglio di un fiume. Quindi i nostri pensieri sono il fiume, no? Mm-hmm. Quindi il fiume, sì, a noi. Sì, il fiume porta tanta acqua, tanti pensieri, la corrente, no? È molto turbolenta a volte, abbiamo tanti pensieri, tante cose in testa, le cose da fare, il bambino da andare a prendere, i compiti e non so, tante cose. E lui dice, a volte provate a mettervi un po' sul ciglio della sponda del fiume, così vedete i vostri pensieri, li percepite ma non vi fate travolgere, perché mm-hmm, il problema è quando i pensieri ci travolgono. Mm-hmm. Questa metafora a volte cerco di ricordarmela e dire, ok, adesso mi cerco un po', mi siedo, è già una grande azione nella vita, perché tante volte la giornata passa e non ci fermiamo neanche 3 minuti, magari bastano 3 minuti per sedersi un attimo e non fare nulla, E cambia molto la percezione, cambia molto, sì, di tutto. Sì, sì. Perfetto, quindi questo libro, vogliamo ripetere come si chiama? Allora, il titolo è Dovunque vada ci sei già, okay, credo sia in varie lingue, sicuramente inglese, francese, spagnolo. Sì. Molte lingue, e l'autore è John Kabat-Zinn. Ok, perfetto. Questo è un consiglio proprio pratico. Per molto pratico. Avanti. Grazie mille, Valentina. Prego. Andiamo avanti? Andiamo avanti, secondo il terzo punto. Ho trovato l'altro punto, era utilizza pensieri rilassanti. Per rilassarci. Sì, per affrontare, sì, questi sono proprio in una situazione di stress quando non, uno dice aiuto, non ce la faccio più. Sì, quindi sembra che noi dobbiamo pensare a delle situazioni piacevoli, incoraggianti, piuttosto che ai problemi che abbiamo davanti. Perché certo, quello è abbastanza ovvio, ma devo dire che per me, per esempio, a volte non funziona. È quando difficile. Io stesso mi dico che adesso devo pensare a una cosa, tipo sono a letto, ho 30.000 pensieri e cose che mi fanno un po' ansia, o devo ancora fare questo e quello e quell'altro. E poi mi dico che non devo pensarci adesso, devo dormire, se no domani sarò stanca e non potrò fare niente. Esatto. E quindi penso a qualcosa piacevole, però dopo 3 secondi i pensieri ritornano. Quindi la cosa che aiuta me, non so, ma è parlare di quella situazione bella con qualcuno, non pensarci solo, ma per me è più, non so, condividere, parlare, esternizzare, così cambi davvero, sì, non so, devi parlarne, devi non solo pensarci, sì, però credo. Quindi voglia di parlare di questa situazione, sì, piacevole, di un ricordo, di un, sì, momento bello, ne parli con la persona che sta, sì, in quel momento, e così ti passa. Beh, così sì, ci sono più, sì, è più, più chance, sì, più chance, diciamo, sì. No, credo che sia difficile, credo che sia buona, come è un buon suggerimento quello di avere immagini positive, ma a volte è difficile, perché quando sei nel mezzo della situazione negativa, certo, bisogna autodisciplinarsi e dire ok, adesso basta, adesso ho un pensiero positivo, ma è difficile in quel momento. No, sì, ma anche se ti viene, però poi non resta, la cosa più forte è sempre quella, sì, cosa è la corrente, negativa, no? La corrente del fiume. Sì. È troppo forte. E invece qui ho trovato, dice che appunto trova un momento piacevole della tua vita, pensaci, dopo 5 minuti dovresti essere riuscito a calmarti, e poi dice di fare un gesto preciso, per esempio stringere il pollice e l'indice e massaggiare il palmo della mano tutto allo stesso tempo. No, no, immagino, so, di no. No, no. Allora, dice di stringere il pollice e l'indice, virgola, quindi oppure, sì, sì, di, sì, massaggiare il palmo della mano. Si può scegliere qualsiasi, quindi, un gesto che sia inusuale e che però ti permette di stare in pubblico, cioè non che ti metti a grattarti, certo, la schiena, non so. Ma le orecchie, sì, anche l'orecchio, vicino all'orecchio, lì rilassa, ci sono dei punti. Ah, ma non lo sapevo. E adesso, dopodiché puoi pensare a qualcosa di neutro, per esempio la lista della spesa. È un po' ridicolo. Va bene. E quindi, vabbè, fai questo esercizio e dopodiché sei tranquillo e sereno per andare avanti. Sei d'accordo, Valentina? O non tanto? Ma può essere che qualcosa funzioni, però forse è abbastanza semplicistica come cosa. Sì. No, magari sono cose vere, però non sempre. Se uno è nel mezzo della tempesta, non credo che il pensiero positivo, così solo, diciamo, solo ti possa solo aiutare. E poi credo che sia piuttosto un lavoro di tanto tempo, non è, perché quando sei nel momento più duro, più difficile o di maggiore stress, è difficile intervenire, deve essere un lavoro più lungo, no? Magari facendo yoga, ecco. O facendo, non so, meditazione. Quindi adesso non si tratta, cioè si tratta di un'educazione, secondo me, permanente, sì. Secondo del me nostro sì. corpo, della nostra sì. mente. È più la disciplina o comunque l'intenzione di costantemente fare qualcosa, perché nel momento di maggiore stress è difficile intervenire, è già un po' tardi quando la barca è in mezzo alla tempesta. Mm-hmm. Esatto. Che facciamo? Mandiamo un'altra canzone o andiamo avanti? Facciamo tutti i 5 punti. Finiamo i punti? Siamo arrivati, no? E poi facciamo la canzone. Ok, allora, il quarto punto è mettiti in azione. Quello che dicevi anche tu, Valentina. Quindi prendi le redini della situazione e comincia a decidere, comincia a scegliere quello che vuoi fare. E poi il quinto punto, migliora il tuo sonno. Quello è vero, è importante dormire, certo, dormire bene. Certo, e già è un cane che poi si morde la coda, perché nel momento in cui riduci lo stress puoi anche dormire meglio. Ma sì, già è importante se uno è consapevole. Credo che questo punto di prendere, diciamo, di agire, è importante, perché nel momento in cui tu decidi di agire vuol dire che sei consapevole. Cioè, almeno se uno è consapevole che ha un livello elevato di stress può agire. Ma se è talmente, diciamo, subdolo, non si rende neanche conto, no? È proprio inglobato. Dalla situazione, dallo stress. Esatto. Però qui ho trovato anche che dormire bene aiuta a eliminare lo stress. È vero. È anche un'altra parte del... Secondo me anche l'alimentazione è importante allo stesso tempo. Probabilmente. Se non mangi bene, il tuo corpo è più stanco, è più non è equilibrato, non dormi bene, perché poi hai difficoltà a digerire o non so... secondo me sono tante cose, tante piccole cose che fanno l'insieme. Certo. E il corpo è tanto legato, cioè il corpo è veramente legato in una maniera che noi non immaginiamo neanche. Adesso la nostra società ha dimenticato, no? Ha un po' tagliato i legami del corpo con la mente. Ma se noi pensiamo alla tradizione dello yoga o tante tradizioni orientali, yoga fra l'altro vuol proprio dire unione. Fra unione vuol dire tratto di unione, quindi unione fra corpo e anima. Ok, e ci vuoi parlare un po' di più dello yoga, Valentina? Come volete, o vuoi lanciare la canzone? Lanciamo una canzone. Suspense. E allora mandiamo ancora Pino Daniele, Occhi che sanno parlare. Rieccoci qui, siamo con I colori dell'anima, Cristina e Barbara con voi questa sera e Valentina, nostra ospite d'eccezione, per parlare della tutte le tecniche che ci permettono di allontanare lo stress e di stare in pace, tranquilli, sereni. Quindi Valentina, prima della nostra canzone ci stavi introducendo un po' lo yoga, che sembra che è una tecnica orientale. Raccontaci quello che sai, presentaci. Lo yoga è intanto una, diciamo così, una disciplina vastissima, molto complessa, quindi è difficile in poche parole, ma cerchiamo di sintetizzare per i nostri ascoltatori di Radio Alma. E intanto, come dicevo, è interessante forse sapere che yoga in sanscrito vuol dire tratto di unione, stato di unione o di unità dell'essere. Quindi è proprio lo stato di unione fra il corpo e la mente, fra il corpo e la spiritualità. E poi definire lo yoga è molto difficile, ma in realtà lo yoga che noi, diciamo, definiamo noi come occidentali è soltanto una delle tante discipline orientali ed è uno dei sei sistemi, diciamo, grandi sistemi della filosofia Veda, della filosofia induista. Comunque, oggi noi ne prendiamo solo una piccola parte, no? Quindi in Occidente hanno preso la parte più fisica, più basata sul corpo. In realtà yoga vuol dire, è una serie di principi, io li ho presi qua, però non sto a dirveli tutti, ma sono 8 principi che riguardano anche la mente, che riguardano anche la disciplina, la respirazione, insomma una serie di cose. E l'Occidente ha preso, diciamo così, quello che è un po' più comodo, fra virgolette, però utile, è molto utile. Forse più facile e più concreto, perché lo yoga che si pratica in Occidente è soprattutto l'Hatha Yoga, che è quello basato sulle posture. quindi sì, lo quindi stare più fermo, fisico, più fisico, esatto, che comunque ha moltissimi benefici, quindi è sicuramente valido. E oggi ci sono tante correnti, ad esempio c'è lo yoga per il ridere, c'è lo yoga antistress, c'è lo yoga premamà, lo yoga... Sì, c'è anche uno yoga per ridere, sì, ho letto. Sì. Ma questo lo lasciamo per la fine. Invece io volevo, appunto per lo yoga, se noi riusciamo a unire allo yoga anche le tecniche giuste per dormire bene, aggiungiamo qualche informazione in più, magari... ancora meglio. Allora, qualche consiglio pratico. Bisogna fissare la sveglia sempre alla stessa ora. Tranne i weekend, spero. No, qui dice dicono... anche il weekend. Anche il weekend, perché così si mantiene un ritmo per il nostro corpo, che si abitua. E... però io devo dire che il weekend... anch'io devo dire che dormo di più. Dormo di più e penso che il mio corpo ha capito questo ritmo. Anch'io. Però dicono così, dicono, sì, dicono che il metabolismo andrebbe meglio, ma... sì. Poi dice anche che bisogna avere una piccola, una piacevole routine la mattina. Per esempio, c'è chi si sveglia e va a fare una corsa, c'è chi fa la doccia, c'è chi fa la colazione subito appena sveglio, varie... ci sono varie... insomma, ognuno deve avere la sua piccola routine così... piacevole. Leggere il giornale. Per esempio, sì. Quindi abitudinari, tranquilli, rilassati. Poi bisogna bere appena svegli, perché la notte è il periodo più lungo in cui non beviamo, non ci idratiamo, quindi questo fa molto bene al nostro corpo. E poi dice di fare anche dei piccoli esercizi di per riattivare il nostro corpo, un po' di stretching, respirazione consapevole, profonda, così di fronte allo specchio mentre sbadigliamo ci stiriamo il braccio, la gamba, giriamo il collo, tutto quanto, così andiamo al lavoro contentissimi. E poi alzarsi, perché questo era letto. Non abbiamo tutto. No, nel senso che bisogna fare tutto questo a letto, nel senso che bisogna alzarsi subito, cioè appena suona la sveglia bisogna alzarsi dal letto e non stare a far risuonare e attendere ancora altri 5 minuti, altri è 5 vero, minuti. No, io lo sento tanto, mi sento molto meglio quando mi sveglio e mi alzo subito che non quando resto a letto altri 5-10 minuti. Mm-hmm. Ma questo è il dopo dormire, per dormire, allora per chi ha problemi di addormentarsi? Ah, è vero, queste sono tutte tecniche per avere un buon ciclo del sonno. Per problemi per addormentarsi, allora ci sono alcuni esercizi che a me capita di fare a volte. Per esempio, come si dice? Immaginare il contorno, di fare il contorno del proprio corpo. Ah, interessante. Con gli occhi chiusi, lentamente. Okay. Mm-hmm. Come quando all'asilo si faceva il contorno il pennarello. Sì. E infatti mi capita di iniziare e a volte non mi ricordo se l'ho finito. Questa sembra una tecnica di meditazione, lo scan corporale, è vero? Sì, sì. Quando uno deve immaginare ciascun pezzo del proprio corpo. Mm-hmm. Infatti io una volta ho provato, però mi sono addormentata prima, perché... il risultato a volte è quello. E in effetti quello che succede è che quando passi con la mente, immagini di passare vicino al braccio, per esempio, o comunque alla parte del corpo, sembra che quella parte del corpo diventa più pesante. Ah. Diventa molto più pesante e sembra che ti stai affondando nel materasso, per esempio, se stai a letto. È una proprio una sensazione fisica. Fisica, interessante. È come se prendi coscienza ancora di più del tuo corpo e ovviamente la respirazione rallenta, e i battiti cardiaci rallentano. Mm-hmm. E sei pronto per dormire. Sì, e dormi bene. Un'altra tecnica è quella di ascoltare il battito del tuo cuore. Ok. Proprio seguire il battito del cuore così. E, oppure un'altra, immaginare davanti a te un quadro bianco e... che deve rimanere bianco, e quindi tutti i pensieri che ti passano per la testa non possono entrare in questo quadro bianco. Okay. Quindi in realtà è una tecnica di concentrazione che ti permette di calmare i tuoi pensieri. Vedi, il bianco è il colore del rilassamento. L'abbiamo fatto bene, Cristina, con la nostra Hai visto scelta. Che intuizione geniale. E quindi però allo stesso tempo ti rilassa e quindi ti fa dormire. Oh, bello. Interessanti, sì. Quindi queste... voilà, Vuoi aggiungere qualche altra tecnica? Ma qua più che di tecniche, forse posso darvi qualche dritta, perché sarebbe troppo complicato, veramente. Vi consiglio, per quel che riguarda lo yoga, di leggere la storia, è molto interessante, ma qualche dritta su Bruxelles. Va bene. A dopo. Oh, ok. Valentina, avrei una domanda. Tu come fai per essere così rilassata? Ma non sono rilassata. Non è vero, no. Quelli che sono a casa con me se ne accorgo che non sono sempre rilassata. Vabbè, ma quello è anche umano, è normale. Nessuno può essere solo rilassato. No, però comunque, tu cosa fai? Come i metodi che usi tu? Ma io cerco ogni giorno di avere almeno 3 minuti o 4 minuti per non fare nulla. E meditare. Quindi ti sdrai, sì. E poi pensi a... non penso, almeno penso al mio respiro, cioè mi concentro sul respiro. Okay. E magari faccio una posizione yoga, quelle più facili. Sì. E poi in quei 3 minuti cerco di fare magari uno scan del corpo, come in realtà diceva Cristina, velocemente, per vedere se c'è qualcosa nel corpo, se c'è qualche, non so, una sensazione, un dolore. Poi uno scan alla mente, ai pensieri che passano, e poi uno scan alle emozioni, se c'è qualche emozione. E questo anche 3 minuti lo si può fare. Come in realtà, si fa? Scusa se ti interrompo. Dimmi. Come si fa lo scan delle emozioni? Io sono troppo stupida. No, ma non è... Giusto, vedi, è per rendersi conto se hai delle emozioni in quel momento. Tu ti fermi 3 minuti. Mm-hmm. Ho detto scan, ma sì, è diciamo... Fai una sorta di cernita, dici, ok, cosa succede ora in me? Sono nervosa. Sì, in realtà questo non l'ho inventato io, ovviamente no, ma è una cosa che ho preso da un sito web di un'associazione qui basata a Bruxelles, che si chiama Emergence, e Ilios Kotsu, sto anche dicendo il nome, ha elaborato questo veloce esercizio che si chiama, mi sembra una cosa, diciamo, lui lo chiama le previsioni del tempo giornaliere, quindi in modo abbastanza così comico, ma molto carino secondo me, e consiglia di farlo ogni giorno, almeno una volta al giorno. È una sorta di, così, diciamo, arresto di se stessi, e in cui uno vede un po' cosa succede nel nostro corpo, nella nostra mente, nei nostri pensieri. Ma quindi uno guarda, tipo... Si guarda, sì. Ma poi non fa niente, tipo dici, ok, adesso sono super nervosa, sono gelosa, che ne so, sì, che emozioni ci possono essere... Ma poi non ti aiuta a gestire queste emozioni poi, o è solo il primo passo? Ok, sono consapevole che adesso in questo momento sono, non so, così ansiosa, e poi devi vedere dopo come fare. Dopo devi vedere, beh, questo è il primo passo, sì. Questo è sicuramente il primo passo. Però che non è neanche semplice da fare il primo passo, perché io ci ho provato qualche volta a meditare, quindi a non pensare, come diceva Valentina, a non pensare a niente, a seguire solo la respirazione, ed difficile. È difficilissimo. Sì. È proprio difficile. È come se tutti i pensieri che avevi dimenticato da 10 anni rivengono tutti insieme. Ma infatti è per quello che in quel momento uno dovrebbe accettarli, e nel momento in cui li accetti, i pensieri arrivano, tu li accetti, vedi che sono lì, dici, ah, sto pensando ancora a questa cosa, sto ancora pensando a quel tizio che mi ha detto, però lo lasci andare il pensiero, non ti attacchi. Esatto. È facile da dirsi, ma non da farsi. È molto difficile, sì. Molto, molto difficile. Ma quindi alla fine poi... cioè tutti questi pensieri che ti rivengono, e non sei senza pensieri, perché comunque vengono, li lasci andare, però viene il prossimo. Certo, è naturale, siamo umani, però, cioè, il mentale, altrimenti raggiungi, te lo dico, l'ottavo stato di dello yogi, che è quello di raggiungere proprio la meditazione effettiva senza pensieri, ma quello è uno stato veramente, diciamo così, chissà avanzato. Quindi forse avremo tutti i capelli bianchi. Sì. Va bene. Allora adesso ci rilassiamo un attimo. Proviamo a chiudere gli occhi, a respirare, e ascoltiamo una canzone che si chiama Femmina. Rieccoci di nuovo online in onda con I colori dell'anima. Dopo questa bellissima canzone di Pino Daniele, che penso tante donne sarebbero contente di sentirsi... non so più parlare, sono troppo emozionata. No, questa canzone è molto bella perché è un po' aggressiva, però in realtà dice delle cose molto belle, molto romantica. Dice non cambiare, resta come sei, hai gli occhi verdi, l'anima è molto forte, tante cose, vabbè. Ok, ne parliamo un'altra volta. Intanto ritorniamo sul nostro pianeta del antistress. Valentina, ci vuoi dare qualche dritta per la vita a Bruxelles? Qualche associazione? Vediamo un po', cosa vi posso... Come rilassare a Bruxelles? In questa città così frenetica. Eppure esistono delle associazioni che vi possono forse aiutare in qualche modo. Sono ovviamente bruxellesi. Allora, posso dirvi, innanzitutto potete controllare su internet agendaplus.be, quindi è una sorta di versione, diciamo così, amplificata dell'agenda che forse tutti voi conoscete, che è distribuita in metro, perché Agenda Plus contiene un sacco di informazioni riguardo a corsi di yoga, corsi, diciamo, retreat spirituali, ritiri spirituali, psicoterapie, un sacco di cose, veramente tantissime, e io lì ho trovato, fra l'altro, varie informazioni su yoga e meditazione, quindi ci sono anche articoli di approfondimento. E poi c'è un'agenda, un calendario vastissimo con tanti appuntamenti, corsi, eccetera. Quindi potete dare un'occhiata. Quindi agendaplus.be. Esatto. Altre associazioni interessanti, una si chiama Tetra, ASBL, che ha due pilastri, saggezza e coscienza, e terra e coscienza. E in soldoni questa associazione cerca un po' di... come abbiamo detto prima, rinforzare il legame fra lo spirito, la spiritualità, la saggezza e la terra. Quindi è divisa in due pilastri, uno appunto sulla saggezza e la coscienza, e l'altro sulla terra. E quello sulla terra, fra l'altro, è anche molto interessante, perché cercano proprio di stimolare il contatto con la terra, hanno il potager con la natura, e quindi anche gli orti, non so, un sacco di cose legate proprio alla vegetazione, a come comprare, a come coltivare, eccetera. Se siete interessati a queste cose un po' più bucoliche, ma è anche tanto altro. E un'altra interessante è Delta, che è il ramo giovane di Tetra. Delta? Delta, sì, come in latino Delta E, vabbè, quindi con la E. Come la lettera dell'alfabeto greco. Delta. Esatto. Delta. Delta.be, credo, ma la trovate anche nel sito di Tetra. Ah, ok. Sì. Sono collegate. Sono collegate. E organizzano anche eventi, conferenze, cicli di seminari con un sacco di esperti. Io vi ho detto pochissime cose, ma quello che ho imparato l'ho imparato lì. E quindi tu hai partecipato? Sì, ho partecipato a qualche workshop, conferenza, ritiro. Ci sono un sacco di cose. E Delta è molto più interessante. È interessante perché offre prezzi più bassi, diciamo, per dirla molto concretamente, perché si rivolge ai giovani fra i 18 e i 32 anni, o 35, e quindi è un po' più, diciamo, rivolta ai giovani. A volte in Tetra ci sono cose molto interessanti, ma un pochino più costose, però invitano dei personaggi anche che vengono dall'India, quindi proprio dei maestri spirituali, Bello. Ci sono molte cose. Molto professionale, sì. Quindi, anche perché è importante per queste cose non, insomma, rivolgersi a chiunque, perché poi ci sono tanti ciarlatani. Sì. Quindi infatti, bisogna stare attenti. Sì. Va bene. E invece c'è un'altra... Barbara? No. Ah, mi devo... Ok. C'è qualcos'altro di interessante? Lo yoga del ridere. Ah. Yoga du rire. Wow. Che ho trovato, allora praticamente dice che ridere è il migliore antidoto dello stress, e esiste un'associazione che si chiama appunto Yoga du Rire.be, e ci sono tanti club du rire a Bruxelles, a XL e Watermal Beaufort. E io una volta ho assistito ad una a una presentazione di queste associazioni dello yoga du rire, che si svolgeva nel centro della città, e praticamente c'era, non so, forse 30-40 persone che erano guidate da uno o due maestri, insegnanti, e ridevano. Ah, solo? Si cantavano, ridevano? Ridevano. Wow! No, vabbè, la persona che li guidava iniziava a ridere, a fare magari dei movimenti con le braccia... E ridevano tutti, nel centro di Bruxelles, in piazza, tutti ridevano, e voilà, e quindi si fanno queste seance di yoga di rire. Barzellette, era solo tipo ti guardi? Senza dirsi niente, no, si tratta proprio di un esercizio fisico, basato sulla respirazione, perché quando ridi respiri molto velocemente. Sì, e quando ridi anche molti muscoli si rilassano, quindi fa proprio bene, e vengono rilasciati anche ormoni positivi. C'è proprio una... Sì, anche pensieri. Sì, positivi. Sì. Ho letto oggi un articolo che se simboli solo, se non ridi veramente, perché c'è il ridere da dentro e ridere fuori. Mm. Tipo ridere fuori puoi farlo facilmente, basta che alzi un po' i lati delle labbra, sembra che ridi. E c'è ci sono degli studi che dicono se fai questo anche a solo qualche volta durante la giornata, se almeno alzi 80%, beh, non lo so poi, ma quello dice lo studio, che 80% dei tuoi pensieri che potrebbero essere negativi sono più positivi. Wow. Solo perché questo movimento, cioè il movimento delle labbra, aiuta al cervello, non so, degli stimoli che dice ok, siamo contenti, va bene, sì, sì. E ti dà il come se prendessimo in giro il cervello. Però è vero, anche io, cioè a me è successo di magari di essere agitata, arrabbiata, così, e quindi sono tutta accigliata, tesa. Con la fronte corrugata, le guance dure, e poi magari passa qualcuno che mi fa sorridere e cambia l'espressione del mio viso e mi sento molto meglio. Sì. E infatti anche a volte ho sentito un suggerimento in uno di questi workshop famosi in cui era una pillola, un suggerimento: ridere a se stessi. Noi abbiamo parlato ora del riso, no, esterno, ma a volte uno dei pensieri positivi potrebbe essere quello di farsi un sorriso interiore. Fa ridere, no? Sentirlo dire. Però c'era stato consigliato praticamente da quell'esperto di ridere, di pensare a un sorriso che viene tipo dal ventre, no? E che sale, e questo sorriso sale, e tu immagini questo sorriso che poi ti abbraccia, no? Quindi è un po' come volersi bene. Cristina mi guarda perplessa. Ma funziona. Ci ho provato. Immagino che adesso c'è qualcosa di divertente. No, questo è più che riso, è sorriso. Okay. Quindi è più un sorriso, ecco. Che te lo fai salire e te lo immagini, e quindi. E quindi poi ti senti. E quindi ti dovresti. È come uno dei pensieri positivi, no? Puoi pensare a un momento bello con la tua famiglia. Sì, oppure sì. Se non hai nulla che ti viene in mente, puoi pensare a un sorriso verso te stessa. Se non ti viene in mente niente, positivo, no. Bello. E poi. Vabbè, comunque è una serie di immagini, è molto basato sull'immaginazione, se vogliamo. Tutte queste tecniche di rilassamento, di anche un po' la meditazione, perché anche quando si cerca di calmare i pensieri, allora si immagina che sono un fiume accanto a te, oppure si immagina il riquadro bianco, oppure, quindi ci aiutiamo molto con le immagini per cercare di gestire questa mente che è agitata, turbolenta. Sì. Un'ultima cosa che vorrei dire per non stressarci tanto. Secondo me è molto importante anche di essere gentili e pazienti con noi stessi, di non farci stressare per ogni piccola cosa. Io per esempio questa cosa me la devo dire anche a volte, perché io sono molto severa con me stessa. Vedi, ti devi fare un sorriso a te stessa, hai visto? No, ma io sorrido, non è quello, è più che io mi stresso. Ma per te stessa? È vero, quello. È vero. Sì, perché di solito il sorriso, quando noi sorridiamo, è sempre per gli altri. E certo, uno deve sorridere a se stesso anche. Non vediamo mai il nostro sorriso. È vero. Non so, voi mi avete riso, ma... Ma scherzo. Che bello. Okay. Allora, ancora una cosa che volevo dire, a dicembre, il 13 dicembre, che è un venerdì, c'è nella Maison Médicale Le Noyer, che è a Spalbeck, un seminario di sofrologia sulla gestione du stress, la sera, dalle 6 alle 7:30, che potrebbe essere interessante. Okay. Io penso di andare. L'ho provato una volta. Ah, sì? Sofrologia, sì. Sì, interessante. Sì, era interessante. Parliamo un'altra puntata, parliamo di sofrologia. Oggi siamo già in chiusura. Sì, siamo arrivati alla fine, però devo dire che tanti spunti di cui possiamo parlare anche altre volte. Volta, sì. E ci sentiamo molto rilassate. Sì. È vero. Adesso possiamo dormire benissimo. Dobbiamo parlare molto più lentamente. Sì. Va bene, quindi vi salutiamo perché siamo veramente in chiusura. Grazie saluto mille a tutti. Valentina. Grazie a voi. Grazie tante. Valentina, grazie mille. Ciao a tutti dai Colori dell'Anima, da Barbara. Ciao. Ciao, buonanotte. E Cristina e Valentina. Buonanotte, ciao. Ciao, a tutti. Buonanotte a tutti. E con Pino Daniele che ci canta. Dove sta? Allora sì.